Fiori e mi sta facendo impazzire un oscillatore, mai capitato, ne ho riparate decine, questo qua ricostruito tutto non oscilla, sto impazzendo, cioè quello è bello, quando è finito, adesso vediamo un attimino. Vediamo un attimino di trovare anche quella, perché non sta oscillando, qualche cosa ci deve essere, beh, capisci, bisogna lasciarla ferma un giorno e poi a mente fredda riprenderla e fare qualche altro controllo. Ma che fastidio, la colpa non la neanche ricordo perché è un bambino. Però giustamente dico questo, facciamo un'ipotesi, dovrei comprare io un apparato da una persona che, punto interrogativo, non è che mi fido più in tanto, cosa faccio? Fabrizio, bravo, qui ho chiamato Fabrizio, mi puoi controllare questo apparato, dovrei comprarvelo, tieni tra un paio di giorni e dimmi se ne vale la pena. Ecco, mi riferisco già a una persona che se ne intende, che automaticamente mi può dare una dritta, però giustamente su questi ragazzini uno approfitta e lì lo sbaglio, capito? È quello che mi rompe più le palle a me, il fattore che le persone ne approfittano sui ragazzini. Cioè, ma che senso ha? Se ti servono soldi vai a lavorare, non a sfeccare i soldi dalla gente ingenua. Quello mi rompe e manda in mischia. Lo so, è così, un attimo in brecco, è così, io non so cosa dirti, ma vado, però poi non lo dico, non so di dove è questo, l'Alta Italia, non lo so, comunque adesso mi faccio vedere il nominativo e poi gli scrivo io tramite QRZ, lo cerco e gli scrivo, gli voglio scrivere due paroline, capito? Una collega, gli faccio due paroline e gli dico come mai questo comportamento, perché ha detto delle cose che non sono vere. Bravo, adesso lasciamo che ci lavoriamo un attimino. Va bene, fai entrare il break e lo passo in QRX, che procedo un attimino ad allineare due cose. Poi dai, avanti il break. Buongiorno, ciao Fabrizio, ciao anche Tonino. Fabrizio, una cortesia, mi posso fare dare il numero da un amico e poi ti devo chiamare per una questione? Se è possibile? Ma tu ce l'hai il mio numero, sì. No, negativo, se vuoi lo chiedo a un amico, già una persona che ti conosce bene, se vuoi, se Giulio, se altre persone, dai. È fatto orale, non è un problema, dai, non è un problema. Benissimo, allora farò così. No, perché devo parlare di una questione, devo dare qualcosa. Ok, ciao Tony, buongiorno, ben entrato, avanti. Ciao, mi hai sentito, ma ti sento un po' piccolo, ti sigla, non ti ho riconosciuto. E la vecchiaia che arrogna, stai vecchiando, è tuo marino, ok, lo chiedo un dino. Ok, io sono so per questo, Tony, so perché è una questione a Fabrizio, tutto qua. Bene, Tony, riprendi, io me ne faccio in quello direttamente, dai, avanti Tonino. Ok, ti ringrazio. Vabbè, sto usando le cuffie, non sto ascoltando proprio con le orecchie mie, sotto marachino, ma con le cuffie è tutto diverso. Ok, Moco X, giustamente, se devi fare Fabrizio, fallo tranquillamente, se c'è qualcosa da dire, poi. Va bene, Fabrizio, dai, tanto ti chiama Torre del Masso, adesso lo dico, così almeno dispone dei suoi piccoli problemi. No, un attimo Fabrizio, chiedo scusa, no, già lo chiamo domani, se in caso, poi non calma, stasera chiama Nico, mi faccio dare le e poi le farò la pasta, là. Ok, non è conosciuto Torino, là, il marino, ok. Ok, ciao Torino, ci sentiamo, già sono in casa. Fabrizio, riprendi, ci sentiamo, là. Ok, ciao, grazie. Aspetta, marino ha detto. Ormai sei vecchio, Torino, sei vecchio. E chi sta parlando? Il piccolino. Aspetta, ma è quel marino che conosco io, il famoso marino. Già sono io, vai tranquillo. Marino della Maria. Scappa marino, ti fa piacere, dato portato. Beh, tanti anni che non ti sento, ti vedo poco e nulla, cioè tu all'improvviso puoi entrare, non mi hai riconosciuto. Vabbè, io ho sempre la solita voce, quindi sono più facile che mi riconoscano. Va bene marino, quando vuoi rientra, noi siamo sempre su 10. Scappa. Tranquilla, già t'ascolto, va. Già t'ascolto, no, non stavo riconoscendo, ma sto organizzando da chi non vecchia, questo ha detto e ho attaccato e mi stava confondendo la modulazione di Fabrizio, sinceramente, ascoltando sono da parecchio e chiudo l'inverso, comunque è sempre forte. Ciao anche Gianni, buongiorno, io faccio quelle girare, Gianni riprendi e tu le vedi per me, dai. Torino, buongiorno, ben sentiti, buona domenica, avanti Torino. Cappa, ciao Giada, ben sentito. Una cosa solo, Marino, ti arrivo bene almeno? Ah, già sarà. Cazzo, però c'è la corsa, avanti Fabrizio. Vai tranquillo, che qui a Ottava è abbastanza forte. Una bella mutazione, un Santiago 95, dai. Ti ringrazio Marino, ok? Buon carica quando lo fai, stanno bene, saluto al Quarrea. Bene, meta. Fabrizio, riprendi. Sì, ciao, riprendo io e passo in quello X che proseguo qua, che se l'apparecchio ha scaldato, proseguo a lavorarci. Dai, ci sentiamo, a dopo magari. Ciao Fabrizio, scusa, non ti avevo sentito, non ho fatto ascolto. Ciao Fabrizio, di nuovo, poco X, ci sentiamo, state bene. Telefono! Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi è? Chi è avanti? Che avanti, Tiago 4, chi sei? Torri, se mi ascolti, ciao, io sto facendo quel ritira, vado a mangiare, è stato, se non c'è nessuno, già sto qua a fare da gruppo.